quasi 23 anni. Allora, ciao a tutti, io sono... L'anno scorso sono stata a Milano, che è un'accademia di danza, canto, recitazione e musica. In realtà io sono nata come ballerina, poi ho scoperto la recitazione, la conduzione televisiva, suono il pianoforte, insomma sì, adoro tutto ciò che ha a che fare con l'arte, vabbè. Ho fatto un film come ballerina, non smettere di sognare, sono una persona molto pignola, sono logorroica, si vede, lo so, ho la voce da titti, cioè tipo... Mi è sembrato di vedere un gatto. Attenzione, attenzione signori uomini, attenzione. Molto spesso voi siete molto più preoccupati della dimensione e del funzionamento del vostro, molto meno della sua manutenzione. Molte donne lamentano infatti di dover far ricorso alla preziosa mentina, che però si sa non risolve il problema. Anche perché, dottoressa, e dopo un quarto d'ora e su e giù e giù e su e mi si stanca la mascella. L'avevo detto che sarebbe stata una bella giornata. Ho un talento per queste cose. Intuisco quando il tempo sta per cambiare. Ieri sembrava la fine del mondo e invece, visto che sole fuori, manca solo un po' di musica. Ci vuole sempre un po' di musica, no? Sì, lo so, può sembrare antipatica come abitudine, ma senza musica non riesco a svegliarmi, come se mi mancasse qualcosa. Accendi lo stereo, la radio e così, un secondo, così. Mi piace troppo. Era la canzone dell'estate, primi anni 80, l'originale, Cyndi Lauper. Lauper, notare la pronuncia. Anche lei era pazzesca. Se non mi ricordo male, lei è cancro. È che mi ricordo la melodia, ma non le parole. Me la ricordo perché d'estate, anche quando ero adolescente, la mettevano ancora, ogni sera, in una discoteca all'aperto. Si chiamava Paradiso Selvaggio. Quando non sanno che nome dare, scrivono Paradiso Selvaggio. Però solo quella c'era. Bellissima, in mezzo agli ulivi, sempre in pista a ballare, scatenata. La musica è la mia vita. No, non è il mio mestiere, ovvio, però in ogni cosa che faccio c'è sempre una canzone. Quando mi alzo, quando vado in bagno, mentre mi faccio il caffè. Caffè? Quando mi sveglio con qualcuno, dico sempre, non ti muovere, vado a farlo io. No, ci tengo. Dov'è la caffettiera? La cucina è in fondo a destra, giusto? O è il bagno? Non è che mi ricordi benissimo. Di solito mi sveglio in casa di altri, ci sono già stata una volta qui. Sicuro? Ma sì, tempo fa ci abitavano altri amici. Stessa casa, però loro l'avevano occupata. Cafoni ignoranti. Eh sì, io un posto così non lo occuperei mai. Io ho grande rispetto per la bellezza. Ma tu guarda che sole, si vede il parco da qui. E grazie davvero per l'ospitalità e complimenti per il posto. Non ha niente da invidiare alle case dei ricchi di merda, davvero. Che bello che è. Dico sempre così per fare un complimento all'ospite, no? E poi accendiamo la radio? E poi accendo la radio. Senti la strofa. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lie. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I fall in love for the first time, and this time I know it's real. I've fallen in love. God knows I've fallen in love. Inglese, yes, inglese fluent. È necessario se vuoi lavorare fuori dall'Italia, perché o entri nell'ottica che vuoi cose interessanti e te ne vai, oppure lavori qui. Però qui non lavori, ti prostituisci. Il cinema e il teatro sperimentale si fanno all'estero. L'arte è tutta fuori dall'Italia. In Italia, con la Chiesa e tutti quei vecchi a sentinella di chissà quale glorioso passato, non si sperimenta. Non sono abituati. Dovevate vedere le facce ieri, quando mi sono messa a sperimentare questo monologo che sto preparando. Non era un granché la location, mica come stasera. La produzione era piccola, ma sembravano sinceri, almeno quello. Uno continuava a sorridermi. Ho portato un monologo tratto da una leggenda greca, un po' concettuale però. Non so se l'hanno capito. Io l'ho capito. Credo. Non sono sicura. Beh, non lo sono mai, a dir la verità. Come ogni vero artista, aggiungerei. Per questo poi chiedo il parere di qualcuno. Sì, un confronto, ma alla gente comune o ai miei amici, perché a me interessano i giudizi proprio dei non addetti ai lavori. Il monologo è un po' crudo. Atmosfere per dire tipo teatro dell'arte o cinema horror classico, quello inglese, no? Ma in abiti orientali. Non è semplice da spiegare a parole. Stasera pensavo di portare quello. È un monologo che può andare in tutte le direzioni. E sarò sincera, sono pronta a dare ascolto anche ai suggerimenti per dire dopo il casting. Li metto alla prova, vedo se capiscono. Partecipare a un provino per essere provinata, ma in realtà provinare chi ti provina. Subito la provocazione, noi Acquario. Subito a cercare di spiazzare. Sì. Almeno parla. No, non hai idea. Oggi è un delirio. Giornata delirante, ma... Mamma, vuoi dire qualcosa? Ma aspetto delle persone, non posso stare al telefono. E poi si tiene spento. Devo spegnerlo. Non si parla al telefono in teatro. Porta male. Ma vado a prendere il caffè. Stai tranquilla, ci sentiamo dopo. Ci penso più tardi. Ora c'è da... Mamma, devo stare concentrata. Ciao. Sono quasi pronta. Caffè e ci sono. Come grande passione e hobby ho il teatro. Ho fatto dei corsi teatrali sia avanzati che intermedi con Margherita e per la Gipsy Academy. Adesso ultimamente sto collaborando con Lucio, che è un attore di Torino Spettacoli. Come apparizioni televisive le ho fatte da piccolina, e dove ho partecipato allo Zecchino d'Oro come Valletta del Mag. Ho preparato un pezzo di Lella che si intitola Sesso e Sentimento numero 1. Cara Lella, ti invio i testi delle domande per il test, oddio, ancora test. Sei pronta sessualmente per il 2009? Vengo dalla danza. Si vede, no? Beh, dalla danza, ma non solo. Sono Acquario. L'Acquario è un segno d'aria, creativo e libero. Sempre un po' artista. Sempre lì a creare, libera di spaziare. Ma vengo dalla danza, si vede occhio nudo. Chi viene dalla danza si vede anche quando sta ferma, che viene dalla danza. La postura eretta. Pure a letto, per dire, pure mentre dormo, cerco di stare sdraiata in maniera elegante. Faccio attenzione. In accademia mi sta tornando utile il portamento. E ci credo. Ore e ore di lavoro sul baricentro. La conoscenza del respiro e del movimento. L'energia, tanta energia, altrimenti sul palco non ti vede nessuno. Da piccola però cantavo. Mi piaceva la musica. Non tutta la musica, ma mi piaceva. Non quella che ascoltava mia madre. Sapevo tutte le parole di tutte le canzoni. Parenti, amici di famiglia, a fine pranzo, e dai, cantaci qualcosa. E non c'entra la storia dello Zecchino. Ero capace. Bucavo lo schermo. Lo dicevano tutti in studio. Era evidente. Si era capito che Cino aveva visto in me qualcosa di diverso. Il mago Zurli durante le prove si era fatto più di una foto con me guancia a guancia, con quel suo bel mantello. Mago Zurli era un personaggio che Cino Tortorella, Cancro, aveva pensato per il teatro, con quel suo mantello stupendo. L'aveva pensato per Giorgio Streller in persona. Si sente se una fa attenzione. Cino fu un vero professionista, bisogna essere onesti. Era la canzone che era proprio una canzone di merda, ma capita, no? Sì, però se sei un professionista, una può anche dire passa oltre. Vedi che buco lo schermo e mi lasci andare così, per una qualunque canzone di merda che mi è andata di sfiga. Va bene. Niente, mandarono Cino a dirmelo. Lo disse con quel suo bel mantello celeste. Ma io dissi, nessun problema. Non mi abbatto io, acquario fino alla fine. Cino l'hanno anche cacciato qualche anno fa. Hanno allontanato lui e Topo Gigio dal programma. Tutta colpa del frate che hanno messo a dirigere l'Ambrosiano. Povero Cino, ora gira coi capelli lunghi. Ha avuto un'esperienza extracorporea di premorte. Ci ha pure scritto un libro. Dovrei leggerlo, ma chi ha il tempo? Comunque, con la musica non è andata. Pazienza. Anzi, meglio, perché ora recito. Oppure dipingo. Dipingo per hobby, per sfogarmi, e in scena voglio portare ai limiti sia la voce che il corpo. L'ho detto anche al mio maestro di tecnica vocale. All'inizio la perdevo facilmente, giorni interi senza poter parlare, poi miele, caramelle balsamiche, spray, propoli, erisimo. All'inizio non capisci che è tutto collegato, il cervello, il cuore, la voce. Davvero, all'inizio sembra una fesseria new age, ma dopo un po' ti rendi conto che tu dentro sei un oceano di ingranaggi dove tutto è collegato. E sì, da quando ho capito chi sono, non ho più perso la voce, neanche quando canto a squarciagola. E io canto spesso a squarciagola. Mi fa sentire libera. La musica è fondamentale nella mia vita. Io dico sempre che senza musica la vita sarebbe un cartone animato senza colori. Per me la recitazione deve essere come uno spartito. Le note che leggi, invece di cantarle, le declami. Così vedo la recitazione. E in accademia lo sanno. Ho scelto questa strada della recitazione perché, per dire, adesso la sento molto, molto più mia. Mi rappresenta molto, molto di più. Sto correndo, lo so. Ma la fretta è nemica, anche nella recitazione. È negativa in generale. Io cerco di non avere fretta. L'ansia non la sopporto. E poi la fretta è nemica della bellezza. Per diventare qualcuno devi dedicare del tempo a te stessa. Se vuoi una bella pelle, la fretta non va bene. La pelle, quando è bella, riflette meglio la luce. Il viso si illumina e prende la scena da solo. Una bella pelle è il segreto di tutte le più grandi attrici. Mens sana in corpore sano. Bisogna averne cura. Non siamo tutte fortunate come le giapponesi e se non sei fortunata, se non ce l'hai nel DNA, devi essere furba. Devi avere dei segreti. Per esempio, ci sono una serie di bevande per una pelle splendida. Centrifugati, succhi, frullati, devi fare il pieno di vitamine. Come quella vecchia negra di 70 anni, sì, quella in quel video di YouTube, che come ha fatto ad avere una pelle così splendida e tonica, Dio solo lo sa. Di sicuro avrà parenti giapponesi. Ma la pelle riflette ciò che si mangia e si beve, e anche un po' ciò che sei, cioè se per esempio hai cromosomi orientali o meno. Io no. Se mangio troppi cibi grassi e bevo alcol, la pelle ne risente e boom, spuntano certi vulcani sulla fronte. Quando? Sempre il giorno prima del provino. E allora sempre bevande nutrienti. Tè verde, tè fermentato, frullato di cetrioli, ma soprattutto avocado. Tanto avocado. L'unico rimedio serio all'invecchiamento, antidepressivo e ottimo per i capelli secchi. In Europa siamo in pochi ad aver capito l'avocado. Credo sia colpa dell'ignoranza generale. L'avocado è messicano. Credo si porti dietro tutto uno storico di pregiudizi. La lotta alle droghe, i narcos, eccetera, eccetera. Ma nel mondo l'avocado vale oro. Qui non arrivano sempre. Eh no, non puoi chiamare quelli della Coop avocado. Se lo trovi alla Coop è troppo facile. Mercatini, bancarelle, fruttivendoli di fiducia e poi lo cucini come vuoi. Tanto esce sempre buono. Io consiglio cioccolato e tartar di avocado. La fine del mondo. E voi direte, orrore! Povera pelle, direte, c'è il cioccolato, l'olio di palma, chissà i conservanti. Però scusa, la vita è una. Devi pur vivere la trasgressione. Non è un male trasgredire se poi hai la capacità di pentirti. E la tartare di avocado è il chiaro segno che sei pentita. Ecco che cos'è l'equilibrio: fare le cose peggiori, che tanto alla fine c'è l'indulto. Fosse così anche con la pelle. Comunque, oggi vado di succo detox con cavolo e basta. Schifo? Ma no, figurati, al massimo l'odore. Il cavolo ha diverse vitamine, come la vitamina A, quella delle cremine antietà, rinnovamento cellulare, liberazione della pelle dall'aspetto vecchio. E poi mi pare, se non ricordo male, che la vitamina C e il rame sono compresi, che sono a base di collagene. Rafforzano la pelle, insomma. Ma oggi niente detox con cavolo, magari domani. Oggi mi sparo un bel succo di melograno. La parola d'ordine? Antiossidanti del melograno, il doppio del tè verde. Assurdo, fantastico, perché non ti fa venire le rughe e le linee di espressione. Anche se le linee di espressione, se fai l'attrice, possono tornare utili. Quasi quasi oggi me le disegno. Siano sempre lodati gli antiossidanti del succo di melograno. Salvano il colore della pelle. Perché se non sei giapponese, la tua pelle ha di sicuro un colore di merda e noi dobbiamo aiutarla. E come l'aiutiamo? Tisana. Prima del succo di melograno mi preparo una bella tisana depurativa. Ergastolo per gli spilorci. Gli ingredienti si comprano in farmacia, non esistono che frangola corteccia, radice di bardana, radice di trassaco, foglie di carciofo, foglie di betulla, semi di finocchio, foglie di melissa e tanta, tanta acqua e zenzero. Come se piovesse. Io faccio come le streghe. Eccoci con la tisana. Una volta mischiato tutto, si butta giù ed è pure buono. Ma il concetto di amaro è antico. Ecco, io faccio in modo che si senta un po' più la parte naturale. Vabbè, salute. Che merda. No, niente da fare. Ha un sapore amarissimo. Vedi a non essere giapponesi cosa devi passare. Meglio ripetere le regole. Sì, le regole basilari, come i comandamenti. Avanti, ripetiamo. Per fare l'attrice, primo devi sapere come funzionano i casting. Un'attrice deve sapere come funzionano i casting. Se c'è bisogno di un agente o se ti puoi presentare da sola. Come fare a sapere se sei stata scelta? Se le spese dei viaggi vengono rimborsate o no? No, non vengono mai rimborsate. Partecipare al casting ha un costo. Come ci si veste e se serve un curriculum? Cosa scrivere nel curriculum? La mega domanda. Si viene chiamate. Ti presenti puntuale e assolutamente senza ritardare. Si attende. Ci si comporta non ostentando e non lamentandosi di altri. Questo è il primo incontro. Durante l'incontro, se li convinci, possono farti leggere una cosa al momento, oppure ti fanno solo presentare davanti a una telecamera, oppure ti fanno ritornare. Si chiama callback. Tutto può finire lì o avere un successivo incontro con lo stesso casting, con l'aiuto regista, con il regista anche più volte per i provini, però ricorda, devi iniziare a farli solo quando sei pronta, perché i casting director sono una trentina e sono loro a decidere spesso la fortuna e il futuro di un'attrice, sempre di più oggi. E una volta che ti avranno vista, sarà difficile cambiare il loro punto di vista su di te se non li avrai convinti, e così difficilmente verrai richiamata. I casting, ovvero i provini, spesso sono incontri. Altre volte provini, ma anche gli incontri sono importantissimi. Devono sembrare casuali. È difficile, anche perché devi vedertela da sola. Non è che lo fa qualcuno se non lo fai tu. È difficile trovare l'agente giusto. Non esiste l'agente perfetto. Non esistono impresari solo per un attore o due o tre attori. Bisogna capire se nell'agenzia dove vuoi entrare ci sono altre persone simili a te. Se sei tutelata. Nel caso che l'agente ti evita tutti quei provini falsi che girano, tutte quelle finte produzioni, quei finti registi che dicono di preparare e invece non preparano. Anche perché nel mondo dello spettacolo fare qualcosa è importante quanto non sbagliare. E nello spettacolo, come nella vita, non sbagliare è indispensabile. Ai casting seri non ci si presenta in compagnia, anzi, non ci si presenta proprio. Si viene chiamate. I casting veri sono sempre solo su appuntamento. A una certa ora si va al luogo prestabilito e fai il tuo provino. Come fai a sapere se sei stata scelta? Un casting può durare un giorno come un anno. Finché le riprese non saranno iniziate, il casting non è realmente finito. Qualcosa può sempre saltare last minute. E se sarai stata presa ma mica ti danno un contratto, finché non sei arrivata sul set non sai mai se sei stata realmente scelta. Quindi meglio non parlare di qualcosa che devi fare fino al giorno delle riprese. È inutile chiedersi come faccio a sapere se sono stata scelta? Quando leggi che hanno iniziato a girare il film senza di te, vuol dire che non sei stata presa. E le spese dei viaggi vengono rimborsate? Mai. Produzioni e agenti sono sempre e solo in città. Per loro sei sempre in città anche se sei altrove. Possono chiederti di tornare molte volte, ma puoi anche rimanere un anno senza fare un provino. È un lavoro di estenuanti attese. Nulla è mai certo. Sì. No, non hai capito. Ma cosa vuoi capirne tu del mio lavoro? Ma che ne sai? No, ti piacerebbe. Allora, mamma, te l'ho già detto. Sto lavorando. No, non mi puoi disturbare. No, non mi puoi chiamare. Ti chiamo io quando sono pronto. Vabbè. Ciao, mamma. Ciao. Ciao. Dicevamo, puoi fare anche un film da protagonista che può andare male al botteghino, ma poi farne uno minore e diventare famosa. Per dire, le produzioni preparano. I registi iniziano a scegliere il cast, i casting mandano la ricerca cast agli agenti, gli agenti fanno le proposte, segue il casting. Se vieni presa, dopo aver lavorato e dopo essere stata pagata, paghi qualcosa. Prima non si paga mai nulla e per nessun motivo. Non si dovrebbe mai, anche se... Come ci si veste? Mai trascurate. Naturalmente capire sempre chi è il regista del film, capire se è una commedia o un film drammatico. E certo che serve un curriculum, devi scrivere chiaro e tondo che you speak in English. Per dire, il curriculum va bene anche di una sola pagina, che deve avere in alto nome, cognome e lingue parlate perfettamente. Non mettere l'italiano, quello è scontato. Oddio, non sempre, ma l'inglese. L'inglese deve essere fluent, che poi... Per fare il mio mestiere non servono mica le scuole dell'obbligo, le università, basta scrivere la tua formazione in recitazione. Poi cinema, TV, fiction, teatro, o se volete prima teatro, poi cinema, poi fiction, e sotto tutte le altre cose, ma solo inerenti alla recitazione, e alla fine sport, dialetti, hobby, eccetera, la pittura. Per fare un esempio, formazione, scuola X. Stage Y, workshop Z, cinema, piccoli clip, cortometraggi e video musicali, TV, titolo, regia, anno, teatro, titolo, regia, anno, poi alla fine sport, hobby e poi naturalmente il segno zodiacale, perché spiega tante cose e i professionisti lo sanno. Sono preparata, eh? Avete mai visto un acquario così? In un provino di qualche settimana fa ero pronta anche a recitare a braccio in inglese. Quelli della produzione non sapevano che dire, però avevano capito di avere di fronte una che ha studiato. Credo di averli lasciati a bocca aperta. Il regista continuava anche a sorridermi. Era un monologo un po' concettuale. Non so se l'hanno capito. È lo stesso che porto stasera. Mezz'argento non se l'aspetta, però lui, secondo me, apprezzerà. Perché cerca artiste lui, mica comparse o caratteristi. Nelle mail che ci siamo scambiati non gli ho detto niente, nessuna anticipazione. Non gli ho voluto rovinare la sorpresa. Inizio così, un po' manga, cartone animato. Anche se si tratta di miti greci. Ma dove pensi di andare se non fai subito capire che il teatro classico è pane per i tuoi denti? E poi i greci, che fichi che erano, barbuti, pensierosi, con un fisico da paura. Per non parlare dei testi. Io appena posso, Antigone, Edipo, Euripide, vado in ordine alfabetico, capito? Gli acquari sanno essere ordinati e precisi, mica solo le vergini. Io quei greci là voglio leggerli tutti. I greci avevano già scritto le serie TV senza avere neanche la TV. Io dico che il mito di Tantalo poi in mezzo argento non se l'aspetta. Non è che l'ho scoperto da tanto, ma già lo sento molto mio. E niente, io faccio girare gli occhi come una pazza, perché l'approccio che voglio dare a questo monologo è sperimentale, un po' internazionale. Tu dici, che noia parlare di miti, e invece un po' cartone animato. Beh, d'altronde l'ispirazione me l'ha data lei. Pollon. Hai capito un acquario cosa è in grado di combinare, eh? E poi c'è una bambina, che ancora dea non è. È graziosa e birichina. Pollon, il suo nome è. E a questo punto faccio la voce di Pollon. Sono stata benissimo, papino. Ho avuto un'esperienza meravigliosa. Uso la voce, come in accademia. Ci sono portata. È uno dei miei punti di forza. La beniamina di tutti gli dèi sei tu. Wow, wow, wow. Pollon, Pollon combina guai. Su, dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città. Pollon, Pollon combina guai. Su, dai, racconta quello che tu sai. Pollon, Pollon combina guai. Su, dai, racconta quello che tu sai. E all'improvviso mi fermo. Voce rauca, sguardo accigliato, severo. E mentre sto cantando Pollon, Pollon combina guai. Su, dai, racconta quello che tu sai di... Vedete gli occhi come roteano? Pollon, raccontaci di Tantalo, figlio di Zeus e di Plute. Dai, Pollon, racconta di Tantalo, proprietario di miniere, mezzo dio, re di Frigia. Dai. Un po' personaggio e un po' narratrice esterna, con un pizzico di comicità. Quasi quasi ci metto anche un accento meridionale, che al cinema funziona sempre. Eh beh, guardate Sergio Rubini. Ma, Pollon, Pollon, dimmi qualche cosa, Pollon. Poi seria. Pollon, racconta dei banchetti di quel Tantalo quando in cielo non si parla d'altro. Poi, di nuovo, cambio la voce. Che a pancia piena è tutto più allegro. Poi seria. Racconta, sorellina, i divini e viva, ricco padrone di casa, ai suoi ricevimenti, ai suoi festini di vino e cosci di pollo. Bravo, bravo Tantalo, papino di Niobe e Pelope, femmina e maschio. Evviva i papini golosi e i figli spiritosi. Sono stata benissimo, papino. Ho avuto un'esperienza meravigliosa. Evviva, allegria. Ma quale allegria, Pollon? Quale allegria? Racconta piuttosto. Racconta di Tantalo, che offriva sempre banchetti e tutti lo adoravano, fino al giorno del banchetto in cui, tra nettare e ambrosia, spunta il piede del figlio Pelope. Il piede del figlio di casa. Wow, wow, wow. Racconta, racconta della carne di famiglia servita a tavola pezzo dopo pezzo. Pollon, su, dai. Racconta di Tantalo, padre cannibale, cazzo duro. Ecco, qui in pochi secondi cambio il mio registro. Wow, wow, wow. Dello stupro di Ganimede, il fidanzatino di nonnetto Zeus, e del furto del cane sacro, guardiano del tempio. Wow, wow, wow. Pollon, Pollon combina guai. Su, dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città, della pietra sospesa, appuntita per l'eternità, sopra la testa di quel vecchio porco. Critica sociale, signori, perché ci sta sempre. Le battaglie femministe, l'utero è mio, lo sperma cinquina, er cazzo tombola, per godere delle robine che nonnetto Zeus gli concederà, sempre solo a metà, in uno stato di terrore senza fine. Tantalo, in mezzo allo stagno, il laghetto della verità, con l'acqua fino al mento, fino a quando non vorrà dissetarsi, perché nell'istante in cui cercherà di bere, l'acqua scomparirà e resterà solo terra nera e arsa sotto ai piedi. Tantalo, morto di fame, davanti agli splendidi frutti di peri, meli, melograni, fichi, olivi, portati via dal vento, ogni volta che si avvicinerà per raccoglierli. Evviva, allegria, wow, wow, wow. Pollon, Pollon combina guai. Su, Dai, racconta quello che tu sai. E qui mi fermo. Respiro. La Beniamina di tutti gli dèi. Sei tu. Capisci? Sei tu. Com'è? Un secondo, aspettate che mi sono svuotata. Mi svuoto ogni volta il teatro verità. Ora mi serve un po' di riposo, perché devo essere in forma per il provino. Ancora. No, tu non sei una madre. Sei una rompicoglioni. Sì? Ma ha suonato qualcuno? Sono già arrivati quella della truppa. Mamma, no, devo concentrarmi. Mi devo concentrare e non voglio irritare il maestro. Ciao. Ciao. Io, Mezz'Argento, lo stimo da un punto di vista artistico. E la cosa è reciproca. Secondo me l'idea di Pollon e Tantalo gli piace. Appresta queste iniziative. Mi ricordo la prima volta che abbiamo lavorato insieme. Il primo film ufficiale del maestro. Potente. Tutti molto inesperti. Però, boom, subito un bell'ambiente. Rimborso spese? Figuriamoci. Ma che c'entra? Quell'altra scema diceva i soldi. Diceva che gratis né si metteva nuda né si faceva seviziare, neanche per finta. A quell'ora del mattino, poi. Dilettante. Quella era una sfida. È tutta esperienza che ti fai. Ti fai vedere nell'ambiente, anche se in un ruolo piccolo, anche se con poche battute. Il cinema emergente. Quello è il segreto di un buon curriculum. Chiedevo a Mezz'Argento cose molto particolari. Maestro, nuda e seviziata, d'accordo, ma che tipo di dolore devo trasmettere? Mettevo in pratica quello che si impara in accademia. Volevo essere sicura delle mie scelte sul personaggio. Sono tutte buone a recitare le scene di violenza, ma più violata o più sottomessa? Il dolore, maestro, lo vuole più fisico o mentale? Sono una donna ferita nell'onore o nel corpo? Era importante. Era la scena iniziale. Andava data subito una direzione al film ed era compito mio. Toccava a me. Un freddo che neanche in Alaska quella mattina all'alba. Avevo poche inquadrature. Due primi piani. Mi giocavo tutto in poche frazioni di secondo. Ci siamo subito capiti io e il maestro. Ha capito che avrei preso la decisione giusta. Che come una vera professionista avrei puntato tutto sul senso del pudore. Trasformare le emozioni in arte. Poche parole, meno di quelle previste. Un'interpretazione molto fisica. Molto faccia, oltre che le chiappe, no? E beh, quella è stata la prima volta che Mezz'Argento si è fidato del mio istinto di artista. E di acquario. Fai tu, mi ha detto. Mi fido di te. Già mentre mi truccavo, gli facevo qualche domanda cervellotica, una cosa tipica di noi acquario, ma volevo subito fargli capire che era stata la scelta giusta chiamarmi. Anche alle 11 della notte prima delle riprese per una sostituzione no budget, per essere precisi, Accettai lo stesso. Non volevo fare l'inutile orgogliosa, la stronza che ti lascia a piedi. E pazienza non essere stata la sua prima scelta. Ho fatto bene. Perché, vedi, sono andata e stavolta mi ha chiamata lui a fare il provino. E quando un regista ti richiama, allora vuol dire che sei la sua musa. Il miracolo è che mi è bastato un giorno per sentirmi subito a mio agio sul set. Sì, parlo del primo film insieme. Un cast di giovani, tra i 20 e i 30. Un'esperienza meravigliosa perché ti fa rivivere quell'età. L'età della spensieratezza. Ogni momento quel giorno sul set Mezz'Argento tirava fuori un Kinder, un cioccolato, una patatina, sempre a mangiare, bere Coca-Cola. Cioè, era proprio un'atmosfera goliardica. Scherzi, battute. Beh, poi devo dire che la vita di set è una vita molto rigida, molto monastica. La sera prima ero andata a dormire tardi perché per me era stata una sorpresa. Mi avevano chiamato alle 11 e le riprese erano alle 5:30 del mattino, che, a parte qualcuno che fa jogging e qualcuno che porta al parco il cane, non c'è nessuno. Per questo certi film si gira meglio all'alba. Quindi io, a fine riprese, lo dissi a Mezz'Argento. Qualsiasi tuo prossimo personaggio io mi farò trovare pronta. Niente mi fa più effetto. Ormai sono disinibita. Piccoli lividi o nudo integrale, se lo prevede la storia, coltelli a contatto con la pelle, non mi fanno né caldo né freddo. Non sarò certo io a ingabbiare il personaggio. Se ci sarà da esagerare, io non mi tirerò indietro. Wow, wow, wow. Eccolo, eccolo. È qui. È qui, ci deve essere tutta la troupe. Senti che passi, senti. Senti che personalità, senti come li guida. Ci deve essere qualche scorpione. Mocassini. Devono essere mocassini o scarpe di vernice. Cigolano. Mamma mia, come cigolano. Eccoli che si avvicinano. Ok. Ah, c'è da aspettare un pochino. L'avevo capito che non ci voleva molto. Eh sì, perché prima si è affacciato uno che ha fatto pure finta di chiedere dov'è il bagno, ma voleva vedere come vivevo l'attesa. Era un attore, lo conosco. Uno coi capelli rasta, c'aveva i sandali, aveva quei pantaloni verdi larghi, no? Che sembra tipo una di quelle persone che si vedono per il centro, no? Coi cani. Ma che monologo vuoi portare vestito così? Il provino non è quando ti presenti, gli dici cosa fai e quale monologo hai portato. Il provino comincia mesi prima del provino. Un messaggino, una mail ogni tanto. Mezz'argento io l'ho sentito prima di oggi. Come stai? A cosa stai lavorando? L'hai scritto tu il soggetto? Per lui è il film della vita. Così pensa. Poi me l'ha raccontato. È la storia di queste mandrie di zombie. Un esercito di zombie con la testa coi tentacoli, tipo polpi, ma a forma di mano. E fanno i molliconi. Ti toccano ovunque. Tette, capezzoli, culo, cosce. Mezz'argento vuole chiamarlo la notte delle mani morte viventi. Migliaia di mani che ti toccano ovunque. Tette, capezzoli, fica. Continuando a parlare un'altra lingua, perché sono zombie. Io gliel'ho detto subito. Sono stata chiara e anche un po' severa, perché noi Acquario siamo diretti. Gliel'ho detto senza pensarci, in Mezz'argento. È stupendo. Maestro, voglio essere la tua musa. E lui mi ha detto, vedremo. Intanto fai il nuovo casting. A noi Acquario la vita non regala mai niente. Però quando ho sentito la storia, ho pensato, questa sono io. Una donna in ostaggio e sodomizzata. Mi offro come ostaggio. Je suis l'otage, prendi me. Cosa sono queste cortesie? Je suis Charlie, maestro, mi vedi? Je suis qui, qui, qui, c'est moi. Ma certo che mi interessa la parte, gli ho risposto. Ma sono domande da fare, maestro, così mi offendi. Ne sarei onorata. Stavolta però sono un po' indecisa, sinceramente, sul genere di terrore da dare al personaggio della trilogia. Violentata, d'accordo. Ma che genere di urla? È una popolana, ok, ma più un dolore fisico da massacro mattanza o più un soffrire mentale? Il personaggio di questa popolana che mi ha raccontato Mezz'argento mi ha esaltato. Stavolta non sarà così semplice. Se mi danno la parte, dovrò scegliere in base a quello che sentirò sul set. Sono Acquario. Io lavoro molto sul personaggio e non lascio nulla all'improvvisazione, neanche il vestito. Molte lo sottovalutano, ma è importante. Una bella gonna a campana, 4 centimetri dal ginocchio, alla giapponese. 4 centimetri, devi essere precisa. I millimetri nella vita sono importanti, figurati i centimetri. E sotto la gonna a campana, sottogonna, e sotto la sottogonna, mutandoni. Per mantenere un look modesto, come insegnano quel gran popolo che sono i giapponesi. Così, se il vento solleva la sottogonna, mutandoni, rimani umile, capito? Estate compresa, sì, non è che siccome oggi fa caldo posso presentarmi vestita come al social forum, anzi, mi raccomando, il corsetto stretto da togliere il fiato, alta sartoria, non c'è da fare gli spilorci, ricami, polsini, colli decorati, gonna balze, con fantasie tipo manga eleganti, a coprirmi le ginocchia quando sto in piedi e solo per le occasioni speciali abito. perché si va di abito certe volte. Fine del discorso. E scarpe Mary Jane, nerissime, niente anfibi. Se preferisci, fiocco grosso e nero sulla testa o pettinini o mollette. Costruisci il tuo guardaroba. Ecco fatto. E se oggi non mi danno la parte dopo tutto questo, se oggi la parte femminile la danno un altro, allora io corpetto e tutto, come una vera samurai, mi candido per la parte. Che volete dare a quel fricchettone bugiardo coi sandali? Panca bestia con pantaloni stracciati verdi? È una parte da uomo, dirà qualche ignorante cafone. Che c'entra? È una parte, maschio o femmina, sempre una parte. E se la vuoi a tutti i costi, in modo quasi militare, tipo vergine ascendente vergine, come una specie di soldato cazzutissimo, devi seguire le regole. Regola numero uno. L'artista soffre. Vuoi superare il provino? Allora fai l'artista. Soffri se vuoi la parte. Regola numero due. Non ti abbattere mai. Trova un modo, in qualsiasi situazione. Come maestro? Sono finiti i ruoli delle donne? E qual è il problema? Dimmi qual è il problema. Alle prime difficoltà che fai? Vuoi fermarti? Il regista vuole solo uomini? Eh? Eh no, che non ti fermi. Tanto meglio. Ne uscirà una cosa sperimentale bellissima e allora sei un'attrice. Un'attrice vera però. E non avrai alcuna difficoltà a trasformarti. Reali, veri, trasformati in un uomo. La realtà la costruisci tu, sempre. Io sono un artista, io le cose le vivo davvero, anche quando sono finte. C'è bisogno di un'interpretazione magica. Magica, sì. La notte delle mani morte viventi ha bisogno di un artista in mezzo argento, lo sa. Non è difficile. Basta immedesimarsi, basta crederci. Se necessario, interpreterò un uomo. Ve l'ho detto che avete a che fare con un acquario. Le sfide estreme sono il mio pane quotidiano. Mi scoppieranno le vene sulla fronte, sul collo se necessario. Volontà, disciplina, immedesimazione. Il miracolo dell'interpretazione. Il corpo non può essere un limite, anzi. Guarda tutti quegli attori che per vincere l'Oscar ingrassano, si sformano, si imbruttiscono. Se è il caso, affronterò la natura a viso aperto. Sarò un uomo. Non solo come sguardo, così, o nelle movenze, così. Io parlo del corpo. Credibili. Sempre, no? E allora io... Culo. Fica. Culo, fica. Culo, cazzo, culo, fica, culo, fica, culo, fica, culo, cazzo, no, ok, non è facile. Culo, fica, culo, fica, culo, culo, cazzo, cazzo, cazzo. Ora concentriamoci di più e vedrai che culo, culo, culo, fica, culo, cazzo, no, non funziona, non cresce il cazzo, non mi si alza. No, ma sono pronta. Non mi si alza. Sono pronta, non funziona. Sono pronta. Sì, certo, maestro. Sì. Ok. Sì. Non funziona, non si alza. Sì, maestro. Ok. Sì, come ti ho scritto. Certo. Ok. Bevo. Come stai? Piacere. Che troupe di fichi. Ok, sì, faccio la donna, quindi? Meno male, va. Ok. Ciao, ma tu? Adesso? Adesso? Ora entro nella parte, voi entrate in me? Non vorrei fosse uno shot di no. Vi piacciono i doppi sensi, eh? Avete trovato la persona giusta. Ok. Ma sì, dai. Brindisi porta fortuna. 3, 2, 1, alla goccia! Come? Ancora? Ok. 3, 2, Uno? Come non l'ho finito? No, no, mi fermo. Ok, un goccio però, eh. Come? No, no, non ci salgo su quel coso. Ma va, ma che fate? Ma... Ok, ok. Sono acquario io, cari miei, eh. E poi mi piacciono gli stalloni. E quanta fretta, aspetta. Anche io col doppio senso. Subito la provocazione, noi acquario. E tu di che segno sei? E tu? Dimmi quando... Oh, oh, oh, va forte questo toro, eh? Olè! Avelante! Vamolo! Sì! Oh, sì, otra vez! Ancora! Is anybody home? Su! Su! Well, you don't know me. But I know. Su, alzati, alzati! Hot Cosby! No! Hot Cosby, bello! Che c'è? Cosa sbaglio? Dove sbaglio? Perché questi mezzi cazzi? Hot Cosby! Hot Cosby, su, coraggio, avanti! Su, siamo arrivati fin qui! Tu e tu! Muoviti! Hot Cosby! Hot Cosby! Il tribunale è un posto freddo. Ma se qualcuno ti chiama, ti devi far trovare pronta. Anche se non ci sono le luci giuste. Per un artista è ordinaria amministrazione. Un artista sa come prepararsi. Come quando non hai molto tempo per la ceretta. E vai di strappi. Forti. Decisi, veloce. Il primo fa male. Ma la prima regola è che devi superare il dolore. Veloce. Strappa. Ristrappa. Lacera. Peli. Pelle. Fino alla carne viva. Fino a quando non si vedono i muscoli. Mutande rosse. Il vocalist della giostra grida al microfono mutande rosse. Vodka, tequila, sciottini, boom. Vodka, tequila, sciottini, boom, boom. Si va in scena. Toro meccanico. Molti stalloni dalle parti del bancone. E fidanzate nei paraggi irritate. Sere d'estate. Cicchetti, euforia. Bere, bere, bere. Balli di gruppo, appiccicati. Il dibattimento non aveva evidenziato asserita inferiorità fisica sulla base del toro meccanico, mentre quella psichica veniva smentita dalla teste, alla quale rispondeva a tono. Anche un altro testimone smentiva di averla vista ubriaca mentre asseriva che la vedeva semplicemente divertirsi. E comunque la consulenza tossicologica espletata conduceva alla conclusione che anche 7 sciottini assunti non darebbero nel sangue una concentrazione di alcol superiore a grammi 1,07, percentuale che all'uscita doveva essere già diminuita a grammi 0,8, non rientrando in alcuna fascia di ubriachezza o di alterazione da alcol. Accompagnata fuori, sorretta, tutti al ciringhito. Il primo barista è stato generoso, molto generoso, con Miss Mutandina che non dimentica. Ora è fuori sulle sue gambe, tenuta per le braccia. A dare spettacolo si è dato spettacolo, meglio per noi, ce n'è di più per noi. Le fidanzate ormai sono a casa. Sul vialetto che porta all'uscita un'estranea si avvicina e domanda: tutto bene? Tutto sotto controllo? Reazione di stalloni scattati sull'attenti. Cazzo vuoi? Fai parte della Lega Antistupro? Il toro meccanico comporta un grande equilibrio. La testimone aveva ricevuto da costei risposte rassicuranti, dunque si era tranquillizzata tornando dai suoi amici. Peraltro il tribunale escludeva che fosse stata costretta a bere preordinatamente e comunque rimarcava che la tolleranza all'alcol della stessa era un falso problema, assumendo rilievo solo le condizioni in cui essa era stata vista uscire. autopiccola. Dopo lo show, tutti dietro le quinte. Perché gli ubriachi certe volte hanno in pugno il mondo. Il vocalist della giostra non grida più. Tutti dentro. Anzi, no. In sussistenza del fatto, in consistenza del reato. È così il tribunale dei fatti con il suo verdetto. La formula non scritta. La sentenza dei fantasmi, il verdetto infinito dei fantasmi ogni giorno, toc toc, nessuna erezione completa, per tutta la sera eccitati, fidanzato, quale fidanzato? E poi, arrossamento piccole labbra, vagina regolare, collo uterino regolare, pareti prive di lesioni, non evidenziabili segni. I referti medici potevano agganciarsi alla irritazione dovuta alla cavalcata sul toro meccanico di costei. E sul seno non vi erano tracce di morsi, ma un lieve arrossamento, evidente conseguenza della stimolazione dello stesso. Né segni di lesioni traumatiche o consuntive recenti erano state refertate in zona vaginale. Il tribunale dei tamponi, con risultato negativo. E i fantasmi di nuovo a godersi la scena. Nessuno stallone. Le parole del centro terapia. Agitata, ansiosa, poche parole, qualcuna di tradimento, senso di delusione. I medici in ospedale. Lucida, avvilita, turbata, ma non in stato di shock. Domande su soldi per film splatter o progetti teatro. Macerie. Domande sul gioco del toro meccanico, balli, spinte, abbracci, baci, lingue, macerie. Domande su stato di ubriachezza, supposto o reale, macerie. Ubbidienze, vere o presunte, tutto bene? No, macerie. Hai letto la sentenza dei fantasmi? Sarà un orologio a cucù che ti ricorderà il dolore a modo suo. Per un'ora quasi ti dimenticherai che c'è. Poi cucù e punto e a capo. Com'era? Pillole, medicine, panico, sogni, incubi, pillole, medicine. Vorrei dire qualcosa che abbia un senso, ma un senso, caro direttore, questa vicenda non ce l'ha. Sono io la ragazza dello... Sono io. Esisto. Avanti, briciola dopo briciola. Frammento dopo frammento, la mia vita distrutta, maciullata, mille interrogatori, polizia, tribunali, pure un acquario, scusate, impazzisce. Che c'entravano quelle cose, quelle dicerie? Come potete immaginare che io mi senta adesso? La cosa più amara e dolorosa è vedere come ogni volta che cerco con le mani e i denti di recuperare la mia vita, di andare avanti, c'è sempre qualcosa che torna a ricordarmi che sì, sono stata e non sarò mai più la stessa. Udienze. Prima e seconda sentenza. Ho sempre avuto notizia dai social media piuttosto che dal mio avvocato. Avvocato di merda. So soltanto che è come un elastico, che quando meno me lo aspetto, mentre sono assorta e impegnata a affrontare il mondo piena di cicatrici, ma cercando la forza per farcela, questo maledetto elastico mi riporta indietro ogni maledetta volta. Dopo aver cercato di trasformare il dolore, la paura, il pianto in forza, in arte, ecco un altro articolo che parla di me. Pillole, medicine, panico, sogni, incubi, pillole, medicine. Nell'aula di tribunale è tutto surreale come un supplizio di tantalo. La memoria è una brutta bestia. È bizzarra. Non obbedisce. Nel corso degli anni si dimentica qualcosa. Altre volte no. Che poi quanti sforzi ho fatto per tornare ad avere una vita normale. A ricominciare a studiare, laurearmi, cercare un lavoro, vivere relazioni, uscire, sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, nella propria città. È inutile. Verrai creduta solo se ti mostrerai distrutta o chiudendoti in casa buttando la chiave dalla finestra come una moderna Rapunzel. Così può succedere quindi che in sede di processo qualcuno tiri fuori una fotografia ricavata dai social network in cui a distanza di 3 anni dall'accaduto sei con gli amici, sorridi e non hai il solito muso lungo. Prova lampante che non è stato un delitto così grave. Proprio io, che lotto quotidianamente contro la depressione e la disistima di me. Non riesco a vivere più nella mia città. Mi è stato detto, è stato scritto, che sono un soggetto provocatorio, esibizionista, eccessivo, borderline. Calunnie. E giù pillole, medicine, panico, sogni, incubi, pillole, medicine. Amavo viaggiare. E unito al fatto che non sono riuscita a vivere nella mia città dopo l'accaduto, ho viaggiato molto. Proprio per quella sensazione di essere chiunque e dimenticare la tua storia in un posto nuovo. Perché sono, secondo me, un'attrice e un artista. E ho fatto happening e performance usando il corpo. Nessuno in verità ti crede. Se giri film o fai teatro, se hai fatto della body art, se sei un tipo casa e chiesa, se insomma sei una donna non conforme, dato che non hai passato gli anni dell'adolescenza e della giovinezza in ginocchio sui ceci con la gonna alle caviglie e lo sguardo basso, cosa ti aspetti? Nessuno ti crede. Nessuno. Falsi amici, false speranze. Per non parlare degli avvocati avversari e dei giudici. Le offese migliori sono state: al terzo posto sei un'attrice. Medaglia d'argento, sei un artista. Che ti aspettavi? Vince Gothic Lolita. Stile vicino alla pornografia. Ciò che più fa tristezza di questa storia che mi ha cambiato radicalmente è che nessuno ha vinto. Abbiamo perso tutti. Quello che vince invece, giorno dopo giorno, attraverso quello che faccio, è la voglia di non farmi intimidire, di non perdere la fiducia in me stessa e riacquistarla nel genere umano, facendo volontariato, assistendo gli ultimi, i disabili, le persone con problemi mentali, perché anche quando si è sofferto di depressione, soprattutto per quello, si può essere di empatia e di aiuto. No? Pillole, medicine, panico, sogni, incubi, pillole, medicine, pillole, medicine, panico, sogni, incubi, pillole, medicine, panico, pillole, medicine, panico, sogni, incubi, pillole, medicine, panico. Grazie. Le faremo sapere.